pensieri d'amore quasi a tutte le ore. Tu, soltanto tu, con tutte le emozioni che mi dai, con quello sguardo che tu sola hai, con l'aria di chi a fare l'amore ci mette anche il cuore. Mi hai fatto innamorare, mi hai fatto innamorare, facendomi sognare. Sempre tu con la...